We're going to count together up to 11. Conteremo insieme da 1 a 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. We're going to say the days of the week together. Diremo insieme i giorni della settimana. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. We're going to say the months of the year together. Diremo insieme i mesi dell'anno. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre.